I numeri innanzitutto. Dopo 4 giorni di calo del numero di nuovi contagiati si registra una crescita dovuta innanzitutto al trend anomalo della Lombardia. Sono 62.000 i positivi, oltre 8.000 i morti, oltre 10.000 i guariti. Al centro della scena in queste ore c'è la risposta economica. Un vertice europeo ieri nel quale l'Italia e altri paesi proponevano degli eurobond per fronteggiare la crisi si è concluso con l'affidamento alla BCE e altre istituzioni di definire degli strumenti entro 15 giorni, ma la tensione tra paesi del sud e del nord è stata chiara. Nella notte poi il presidente francese Macron ha annunciato un'iniziativa con gli Stati Uniti e altri paesi. Dettagli a venire. Oh, se non lo sapeste ancora e vi preparaste a mettervi in macchina, a muovervi per andare al lavoro, a fare la spesa, sappiate che c'è un nuovo modulo di autocertificazione, il quarto. Occhio! Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, alle 6:30 minuti di questo venerdì 27 marzo, con una nuova puntata di 24 Mattino e che apriamo come sempre in questi giorni con Bob Marley, il nostro inno per provare a farci coraggio. Il nostro inno che ci dice che nonostante le difficoltà, i morti che stiamo piangendo, il dolore soprattutto in alcune zone d'Italia, alla fine tutto andrà bene, così speriamo. Per quanto tempo ci voglia, tutto andrà bene a un certo punto. Con Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, in redazione insieme a Giorgio De Luca. Iniziamo dunque, non possiamo che iniziare con voi, 349-238-6666 per i vostri messaggi, soprattutto WhatsApp audio in questi giorni. In questi giorni la vostra voce ci fa particolarmente piacere sentirla. Che cosa state facendo? Come vanno le cose? Che giornate state vivendo? Vi hanno controllato, non vi hanno controllato la vostra autocertificazione? State andando al lavoro? State tornando dal lavoro? Siete degli operatori sanitari che sono in giro? Dei camionisti che stanno andando a portare il cibo? Nei supermercati? Ci siamo, raccontateci. Come la state vivendo in casa, anche la tensione psicologica, che anche quella ha un suo peso. Iniziamo con qualche voce, come sempre, e inizierei dalla situazione che ha creato più di qualche preoccupazione ieri. Sono i dati in arrivo dalla regione Lombardia. Così il presidente Fontana. Oggi i numeri purtroppo non sono molto belli. Il numero dei contagiati è aumentato un po' troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Noi speravamo che non si dovesse verificare nessun tipo di aumento di questo genere. Dovremo adesso valutare e capire se si è trattato di un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se invece il trend dell'aumento ricomincia, nel qual caso sarebbe abbastanza imbarazzante. L'assessore alla sanità Gallera. Oh, mi fate notare intanto, sì, scusate, mi ero perso un pezzo, il quinto modulo di autocertificazione, abbiate pazienza. Mi sono un po' perso anch'io. L'assessore alla sanità Gallera sul tema Milano. Il dato molto forte è quello di Milano, dove siamo a 6.922 più 848, quindi è un dato che è più del doppio di quello di ieri. Così la Lombardia, segnali di miglioramento ne intravede la regione Emilia-Romagna, stando alle parole del presidente Bonaccini. Speranza non significa che vada tutto bene, però speranza è condizione essenziale per provare a guardare al futuro. Adesso dobbiamo reggere questa situazione che da qualche giorno qualche timido segnale di miglioramento lo dà. Sì. Se mai di miglioramento si può parlare, forse una parola sbagliata, però una situazione così drammatica. Però qualche accesso in meno al pronto soccorso, qualche ricovero in meno in terapia intensiva rispetto a qualche giorno fa. È stato definito un E a proposito di regioni, c'è tutta una questione che ha a che fare con i materiali, eh? Dove sono finite queste mascherine, dove sono finiti questi camici che poi le regioni devono distribuire agli operatori sanitari? Il problema lo aveva sollevato molto duramente nelle scorse ore il presidente della regione Campania, De Luca. Dice il viceministro Sileri, i problemi sollevati da De Luca sono stati risolti. So che la protezione civile, alcuni stanno lavorando in maniera importante, avete visto c'è ovviamente anche ora una produzione progressivamente che aumenterà a livello nazionale di dispositivi. Io sono sicuro che nelle prossime ore il problema sollevato da De Luca nella giornata di ieri, i problemi sollevati che ho ascoltato stamani verranno ovviamente risolti. In realtà c'è più di un problema nella distribuzione delle mascherine alle regioni. A quanto pare, leggiamo da un quotidiano, dal quotidiano La Repubblica, c'è un algoritmo che le sta distribuendo, non queste mascherine servono, a chi servono? Servono soprattutto ai medici, a chi è insomma sul terreno e che lavora. Ebbene, pare che l'algoritmo distribuisca le mascherine sulla base del numero di contagiati e non sulla base del numero di medici. I medici ne hanno bisogno, cioè il numero di medici resta costante in sostanza. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Io ricordo che i camici impermeabili che ne ha chiesto il Friuli Venezia Giulia, 660.000, sono arrivati zero in Friuli Venezia Giulia. Le mascherine chirurgiche, la regione Friuli Venezia Giulia ne ha chiesto 1.496.000, ne mancano 1.338.000. Le mascherine FFP2, regione Friuli Venezia Giulia ne ha chieste 110.000, ne mancano più di 50.000. Le mascherine FFP3, regione Friuli Venezia Giulia ne ha chiesto 110.000, ne sono arrivati 0. Di ventilatori, mi hanno scritto adesso, quelli ad alta complessità, ne sono arrivati 7. Oggi ne avevamo chiesti 233, ventilatori polmonari in terapia subintensiva abbiamo chiesti 35, ne sono arrivati a 0 e posso andare avanti. Allora, andiamo nel cuore di questa emergenza con due fronti, innanzitutto un fronte territoriale, perché noi stiamo fornendo dei numeri quotidianamente che secondo alcuni sono ampiamente inaffidabili, sia sul numero di contagiati e sia sul numero di vittime, purtroppo. Lo ha detto abbastanza chiaramente il sindaco di Bergamo, Gori, nelle scorse ore. Ci sono almeno 300 morti in più che non sono stati calcolati. E poi l'altro fronte sono i nostri medici, perché hai voglia di dire i nostri eroi, le persone che sono sul fronte, ma innanzitutto devono essere riforniti del materiale che gli serve per lavorare e poi anche di un supporto, perché guardate che reggere situazioni di questo genere non è facile per nulla. E però iniziamo proprio dalla provincia di Bergamo con Alberto Finazzi, che è medico di base a Trescore Balneario. Tra l'altro è positivo a Covid-19, Finazzi, lei, se non violo la sua privacy, prego, buongiorno. Eccomi, sì, buongiorno a tutti. Allora, eccoci qua, dicevo, è positivo a Covid-19 lei? Sì, sono un medico di famiglia risultato positivo al tampone per Covid-19, fortunatamente, clinicamente parlando, non ho avuto complicanze di tipo respiratorio, sto bene. Chiaramente in isolamento domiciliare dal 9 di marzo, e sono attualmente in attesa di ricevere l'esito di tampone di controllo per poter essere riabilitato. Sì. Sta telefonicamente, sta ancora lavorando, Finazzi, come vanno le cose? E come? La medicina di famiglia c'è sempre stata e ancora stavolta in prima linea. Io so di molti colleghi che come me persone in malattia hanno deciso di gestire la reperibilità telefonica per i propri pazienti, in condizioni cliniche permettendo ovviamente. Naturalmente. Mi piace pensare che i pazienti, sentendomi comunque stare bene, possono trarre un po' di serenità e tranquillità anche in un momento come questo in merito alle proprie condizioni. Eh sì. Sicuramente. Senta, Finazzi, volevamo da lei un po' di percezione del territorio, perché noi nei giorni scorsi ne abbiamo un po' parlato, abbiamo parlato soprattutto della situazione delle case di riposo, nelle quali ci sono stati molti morti in questo periodo e non vengono, spesso non gli viene fatto il tampone, non viene verificato per se fossero positivi oppure no al Covid-19. Un caso addirittura di una clinica in provincia di Brescia, a Quinzano, ne abbiamo parlato venerdì scorso, 22 morti, di cui un solo tampone, questo per dare un po' la misura, e molte residenze per anziani nella stessa situazione. Un medico di base della provincia di Bergamo, che percezione ha su questo? La situazione sul territorio rimane molto preoccupante. Allora, sicuramente i dati ufficiali sono, a mio parere, di fatto sottostimati. Oggi in provincia di Bergamo si può stimare un numero di contagi compreso tra i 70.000 e i 100.000 unità. Esiste il dato di fatto che è difficile accedere al tampone, che è indispensabile per la diagnosi e viene riservato solo a chi presenta gravi insufficienze respiratorie effettuate in pronto soccorso. Molti sono però coloro che incorrono in forme pauci sintomatiche e che dunque non vengono sottoposti a tampone. Cioè gente, mi scusi Finazzi, gente che la chiama e le dice: guardi, io ho questi, anche come medico di base, dico che le dice: guardi, io ho questi sintomi, e lei gli dice: guardi, tanto il tampone non si può fare, se li tenga. Il tampone purtroppo oggi è inarrivabile per i più, consideriamo che vengono sottoposti, come dicevo, solo a tampone coloro che presentino gravi insufficienze respiratorie effettuate in pronto soccorso. Molti infatti sono quelli che vivono la forma infettiva in forma pansintomatica, che dunque non vengono sottoposti a tampone. Ogni famiglia oggi può essere considerata un piccolo focolaio di Covid. È chiaro che questo espone i pazienti più fragili a un rischio di contagio esponenzialmente più elevato. Ovviamente. E specie in zone come le vostre, nelle quali spesso le famiglie vivono vicine, cioè gli anziani, di questo se ne è parlato molto, no? Gli anziani vicino alle coppie più giovani, le quali magari hanno figli, quindi contatti tra nonni e nipoti più frequenti, no? Chiaro, chiaro, assolutamente. Chiaro, ma più aumenta la fragilità del paziente infetto, più è facile che la situazione possa non avere un esito positivo. Questo ormai è diventato chiaro in più. Sì. C'è un altro fronte, che è il fronte, e in parte lo stiamo toccando adesso, no? Con Alberto Finazzi, e però riguarda i medici che sono in prima linea. Allora, prendiamola larga, questa esperienza che stiamo vivendo tutti avrà inevitabilmente degli effetti psicologici su tutti quanti, su tutta la popolazione, e di questo a un certo punto bisognerà farsi carico una volta, no, lievemente placate le acque, ma li ha a maggior ragione in questo momento gli effetti psicologici sui medici che si trovano a trattare queste questioni. Siamo con Luigi Janiri, che è direttore della scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università Cattolica, alla guida del servizio di aiuto diretto ai medici e infermieri del Policlinico Gemelli, che stanno affrontando l'emergenza Covid-19. Policlinico Gemelli a Roma, dunque, Janiri, dove la situazione non è così drammatica come nella provincia di Bergamo, nella provincia di Brescia, e però insomma è chiaro che ci si trova in una situazione di difficoltà. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Prego. Sì, sicuramente la situazione è più tranquilla, almeno apparentemente, sicuramente per ora. Certamente però ci stiamo attrezzando sia dal punto di vista sanitario in generale, sia dal punto di vista di questo specifico servizio e di questo specifico progetto, che si rivolge proprio a cercare di aumentare la capacità di resistenza degli operatori sanitari e dei medici, infermieri e altro personale sanitario appunto coinvolto in prima linea. Questo progetto si chiama Resilienza Covid-19, è un progetto ideato appunto dagli psichiatri e dagli psicologi del Policlinico Gemelli, coordinato per l'appunto da me e dal professor Sani, dalla dottoressa Ferretti del servizio di psicologia della Fondazione Policlinico Gemelli, e questo progetto è teso proprio ad aumentare questa resilienza. Resilienza vuol dire fondamentalmente la capacità di resistenza degli operatori. Abbiamo anche sul sito del Gemelli è anche visibile un decalogo che in qualche modo cerca di darci un po' queste linee guida, no? E quelle che noi potremo effettivamente proporre. Anche perché Janiri, mi perdoni, qua adesso andrò a recuperare la pagina di giornale, magari ve la leggo in rassegna stampa, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. C'era una pagina di giornale oggi che raccontava, adesso lo vado a recuperare, degli infermieri che, quelli appena assunti, vengono gettati nella mischia e molti decidono addirittura di rinunciare, cioè di lasciare il lavoro, cioè preferiscono lasciare il lavoro invece che dover gestire una situazione di questo genere. È un caso di questo tipo, in sostanza? Beh, sì, ci sono tantissimi casi di vario genere, che tra l'altro vanno per l'appunto da quelle situazioni di burnout, no? Cioè praticamente di esaurimento emotivo, di demotivazione e quasi di spersonalizzazione di alcuni operatori, fino a dei veri e propri, diciamo, quadri clinici che preoccupano, come i disturbi dell'adattamento, come i disturbi e le sindromi post-traumatiche da stress. Si tratta veramente di diverse situazioni. Noi stiamo avendo varie testimonianze di persone che appunto arrivano anche a pensare certamente di gettare la spugna, altri che invece si accaniscono per certi versi in questa lotta, però in modo, come dire, quasi, diciamo, appunto eroico, trascurando poi invece se stessi, trascurando le proprie relazioni, il proprio spazio. E questa è una cosa anche molto pericolosa, perché certamente gli operatori che sono esposti a questo rischio anche di bruciarsi nel contagio, diciamo così, ma bruciarsi dal punto di vista psicologico, devono avere in qualche modo anche cura di se stessi, cura dei loro cari, delle loro relazioni. E della loro vita e anche della loro salute, perché è molto importante. La prima cosa per un operatore sanitario è quello di mantenersi sano, mantenersi vita, lo sappiamo molto bene. Quindi questo significa, per certi versi, coltivare alcune attività e alcuni interessi, perseguire alcuni interessi per cercare di restare per l'appunto anche impegnati, ma in buona forma, per dare una risposta efficiente. Allora, io la ringrazio, grazie a Luigi Janiri per essere stato con noi, grazie anche ad Alberto Finazzi, medico di base a Trescore Balneario, per averci anche tracciato un quadro. Da là Luigi Janiri, che guida la scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università Cattolica. Il traffico, e poi torniamo, c'è anche qualche elemento politico da sottolineare e anche, oddio, questa discussione surreale sul calcio, ragazzi. Mattino. Dunque, eccoci di nuovo, c'è tutto il fronte politico. Sappiate che dopo l'intervento di Draghi sul Financial Times, qua si sono riaccese un po' le cose. C'è chi sta pensando ad un governo Draghi, abbastanza chiaramente, lo fanno abbastanza chiaramente Salvini e Renzi. Ieri c'è stato l'intervento di Conte in aula, in una giornata complessa che ha portato poi a una riunione dei vertici europei, di capi di Stato e di governo, nella quale, riunione ovviamente a distanza naturalmente, nella quale si è ragionato un po' sugli euro bond per fronteggiare Covid-19, senza grandi risultati a dire il vero. Facciamo una cosa, sentiamo innanzitutto Conte in Senato, che ricorda le vittime di Covid-19. Non avremmo mai pensato nel nostro paese di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell'esercito cariche di bare di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, ma il nostro partecipe pensiero, la nostra commossa vicinanza. Così Conte, l'applauso direi scontato del Senato. Quasi inaspettatamente ci troviamo un leader della Lega, Matteo Salvini, che sempre in Senato elogia Mario Draghi. Mi si permetta di ringraziare il presidente Draghi per le sue parole, perché è caduto il mito del non si può fare debito. Oggi il presidente Draghi ce l'ha detto: si può fare debito, ma non per assistenza, per rilanciare il reddito. Quindi benvenuto presidente Draghi, ci serve l'aiuto di tutti, ci serve anche il suo aiuto. E poi Matteo Renzi, pezzo della maggioranza un po', come dire, un po' particolare, così sempre in Senato. Ora però dobbiamo uscirne, dobbiamo lavorare per salvare la vita dei nostri nonni, dobbiamo evitare di morire di Covid e dobbiamo evitare di morire di fame, perché c'è un'emergenza economica che è fortissima di fronte a noi. E quindi il tema sta diventando questo, meglio, lo è fin dall'inizio, quando fermi tutto in questo modo. E con noi Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica. Ciao Tonia, bentornata. Ciao Simone, eccoci, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, che insomma ci aiuterà un po' a trattare i due fronti. Quello tedesco, ossia come si stanno muovendo, come si sta muovendo la Germania. Nei giorni scorsi siamo andati in Gran Bretagna, siamo stati in Spagna ieri e oggi anche un fronte della Germania. Ma Tonia Mastrobuoni si occupa di questioni economiche europee e di Banca Centrale Europea da anni e quindi ti chiederemo, Tonia, anche uno spunto su questo. Però vorrei capire come si stanno muovendo i tedeschi, perché stiamo leggendo di una prospettiva di 500.000 tamponi a settimana. Occhio, avete sentito bene, 500.000 tamponi a settimana. Sì, esatto. La Germania è convinta che questa sia appunto la via sudcoreana, chiamiamola così, sia la via giusta per avere un quadro lucido, insomma, dei contagi e per continuare ad avere anche un numero basso di morti, perché qui è estremamente basso per una serie di motivi, insomma, che hanno spiegato anche vari scienziati. Perché i focolai erano diversi rispetto a noi, l'epidemia si è sparsa non negli ospedali e in posti dove ci fossero, insomma, più anziani, gente più anche più fragile, ma sono state feste di carnevale, un'azienda in cui c'era gente abbastanza giovane, molte scolaresche, molti gruppi tornati dal Tirolo, quello austriaco e quello italiano, sul Tirolo. Si sono ammalati, quindi insomma l'età media dei contagi è ancora più bassa che in Germania e in più molti medici virologi sono convinti che il fatto di fare i tamponi a tappeto, di essere molto più come dire, realisti anche nel restituire il numero vero dei casi possa in qualche modo contenere meglio anche l'epidemia. E poi qui bisogna anche contare che c'è un numero molto ma molto più alto di posti di rianimazione, sono 28.000 a fronte dei 5-7.000 se non sbaglio in Italia, quindi sì. Insomma, però sui tamponi c'era stata veramente una confusione per settimane, io ho chiesto inutilmente a varie istituzioni di avere un dato complessivo, non si riusciva ad avere, finalmente questo dato è uscito, e però è un dato che contraddice molte fake news, molte teorie complottiste che dicevano che in Germania non si fanno i test. Resta ancora, diciamo, l'incertezza su, per esempio, come continuano i morti, no? Cioè io stessa, appunto, l'istituto Koch non ho avuto, che è l'istituzione ufficiale dove chiedere, insomma, queste cose. Cioè quelli, okay, ma, il concetto è se contano quelli con comorbilità, per così dire, quelli, esatto, che hanno già una qualche malattia, o contano solamente quelli che sono morti effettivamente a causa solo di Covid-19. È una distinzione molto difficile da fare. Senti Tonia, invece il fronte europeo, allora il Consiglio europeo della notte, ci siamo arrivati con 9 capi di Stato e di Governo che chiedevano la cosiddetta mutualizzazione del debito, ossia fare degli eurobond dedicati a Covid-19. Ancora una volta la Germania l'Olanda ha detto proprio no. La Germania ha un po' nicchiato su questa cosa, però le perplessità sono forti, naturalmente. Secondo te come ne usciranno? Questa è una buona domanda. Dunque, secondo me in Germania c'è, appunto, una consapevolezza minore della tragicità dell'epoca in cui stiamo vivendo, secondo me. Cioè, in Germania pensano ancora, ma questo insomma è merkelismo puro anche, di poter prendere tempo per negoziare, quando invece Mario Draghi, tu l'hai citato poco fa, ha detto la velocità anche dell'azione è essenziale. Per alcuni motivi. Primo, la Germania, dunque, le ragioni della Germania. La Germania pensa di aver fatto già moltissimo. Cioè la Germania, come dire, ha rotto vari tabù finora, no? Ha detto sì alla sospensione del patto di stabilità, ha detto sì al fatto che la BCE usi un bazooka che non ha mai amato la Germania, cioè questo acquisto di titoli che adesso è diventato sostanzialmente quasi ad libitum, sì. Insomma. Poi hanno sospeso le regole sulla concorrenza, quindi i paesi possono comprarsi anche le aziende, no? le aziende nazionalizzarle. Poi la Germania dice, ma insomma noi abbiamo schierato ormai un bazooka da 1.100 miliardi di euro e se la nostra economia va bene è tutelata, anche le altre economie lo sono. Quindi la Germania da un lato c'è questa cosa qui che loro dicono, beh noi abbiamo già fatto tanto e forse basta e voi potete eventualmente anche accedere al fondo salva stati eccetera eccetera. Questo è perché? Sì. Perché loro dicono comunque è una condizionalità, da qualche parte dobbiamo metterla, no? Sbagliando. E qui arriviamo invece alle regioni di Draghi. Sì. Cioè, secondo me Draghi ha fatto quell'appello così urgente, così drammatico nei toni, perché il clima in Italia si sta modificando rapidamente, cioè l'euroscetticismo sta crescendo, la rabbia sta crescendo, i morti sono tantissimi, sono troppi, 700 al giorno, cioè come dire, c'è un clima che si sta velocemente, rapidamente, pericolosamente deteriorando in Italia, comprensibilmente. E dall'Europa non arrivano questi segnali di unità, o meglio non si capiscono queste ragioni tedesche, che sono anche sì. ragioni un po' modeste, perché il patto di stabilità non serve a molto, serve molto più appunto un piano comune di spesa, ecco, no? In sì. cui appunto i governi possano in qualche modo fare in modo che i negozi che hanno tirato giù la saracinesca prima o poi la rialzino, questa saracinesca. E questo i tedeschi non lo riescono a cogliere. Senti, io ti ringrazio, grazie Tonia Mastrobuoni, grazie, corrispondente della Germania della Repubblica, per essere stata con noi. Io volevo portarvi anche un attimo sul calcio, ma più che altro per sottolineare questa discussione surreale che sta avvenendo intorno al mondo del calcio. Però facciamo una cosa, abbiamo una voce da farvi sentire, che è dell'ex direttore generale della FIGC, a sottolineare l'eccezionalità e ripeto un po' questa discussione surreale. Quando ricominciamo a giugno, ricominciamo a luglio, ma quando vuoi ricominciare, dai, su, che nemmeno sappiamo quando usciamo di casa. E con Bob Marley ancora chiudiamo questa parte della trasmissione. Ci ritroviamo tra un attimo dopo GR24 con la rassegna stampa. A tra poco, ciao.